Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Donna Vincenza non sapeva nulla di filosofia, anzi, non l'aveva mai sentita nominare. Ma essa viveva inchiodata al suo seggiolone e questo la portava a meditare. Quando Don Sebastiano, nel fondo della corte, montava a cavallo e usciva dal portale di fondo senza salutarla, una scena che si ripeteva tutti i giorni subito dopo la siesta meridiana, Donna Vincenza restava sola e sprofondava nel baratro del tempo, immobile come lei, sospeso sulla sua povera persona come i grappoli del pergolato, che ogni anno, con gli occhi miopi, vedeva formarsi e crescere, enormi stalattiti in una cieca caverna. Li contava, uno per uno, 10, 100 volte, per allontanare i fantasmi che da ogni parte l'assalivano. Ma c'erano chiodi fissi che una mano impietosa conficcava nel suo cervello. Di là dal muro di cinta le giungevano le voci dei vicini che una volta erano stati amici e poi l'avevano tradita perché non avevano voluto rinunciare a una servitù di passaggio. Don Sebastiano aveva il coltello per il manico e poteva imporre quella rinuncia, ma al solito, poiché lei lo voleva e perché era con gli altri un debole, non ne aveva fatto niente. Le era rimasto il ricordo cocente di una sconfitta che ora la perseguitava. Ma che cosa gliene importava a lei di una servitù? La verità era che quei vicini li sentiva come felici nella loro piccola vita e sulla loro felicità misurava la sua sventura. Un tempo, quando viveva la vecchia donna Angelina, venivano a trovarla, anzi erano un poco anche parenti. La casetta era piccola, arieggiava quelle di Seona, sebbene fosse nel centro della città. C'era la corte e il pozzo, e accanto al pozzo una favolosa pianta di erba Luisa, che riempiva di profumo tutta la contrada. Don Sebastiano, che non entrava mai in nessuna casa, qualche volta, attratto dall'odore, chiedeva il permesso di coglierne un ramoscello. Poi donna Angelina si era fatta venire da Oliena una ragazza per farle compagnia e donna Vincenza l'aveva accolta anche lei come una figlia e non c'era ombra di mistero tra loro. Invece c'era, perché la ragazza, che pareva destinata a restare zitella, a un certo punto la fece in barba a tutti e trovò un ridicolo maestro del panno, cioè un sarto, che la sposò e, poiché era danaroso, trasformò la casupola in un palazzotto con la lussuosa bottega al piano di terra. La storia della servitù era nata in quel momento, poiché per costruire avevano bisogno di attraversare con la calce un terreno di Don Sebastiano e dovevano cedere per forza. Donna Vincenza ci vedeva chiaro, ma aveva strillato invano. La conclusione fu che ci rimise la compagnia della ragazza e restò con la servitù. Queste cose potrebbero sembrare sciocchezze e forse lo erano, ma cessavano di esserlo dal momento che esse occupavano la vita di una donna sola, immobile nel suo seggiolone. Don Sebastiano non aveva di questi incubi perché viveva nell'avvenire. Neppure il presente, in fondo, lo riguardava, cioè quella donna dalla quale aveva ormai colto quel che poteva cogliere, e d'altra parte era come lui e più di lui interessata alla conservazione di quel che egli aveva costruito. E quei figli erano destinati a crescere come le viti che piantava nella terra arida, ciascuno col suo naturale, tutti atterriti dal suo esempio. Egli aveva fatto per loro quel che doveva, li aveva vigilati e raddrizzati appunto come le viti. Ora essi costituivano una piccola comunità nella quale si educavano l'uno con l'altro e alla quale egli poteva restare estraneo. E in effetti, essi erano quasi uomini, frequentavano le scuole, alcuni andavano a Sassari, a Cagliari, le lontanissime città sconosciute, poiché a Nuoro non c'erano allora che i 5 anni di ginnasio, il mondo non si era ancora sconvolto. Tutti i nuoresi li invidiavano a Don Sebastiano, e specialmente quelle famiglie di pastori che pensavano bastasse mandare i figli a scuola per uscire dalla tribù. Crescevano legati l'uno all'altro da intensissimo amore, consapevoli della loro responsabilità e perciò organizzati secondo una legge, fosse pur quella di diventare avvocati o medici o ingegneri, alla quale nessuno poteva derogare. È il momento più interessante della famiglia, quello in cui i figli, crescendo, si riconoscono l'un l'altro, scoprono la diversità nell'unità, come le figure di un quadro composte e tenute insieme da una robusta cornice. Questi giovani Sanna parevano avere ciascuno l'impronta del destino che lo attendeva, ma qualunque questo fosse stato, non avrebbe mai potuto cancellare il segno che aveva ricevuto nascendo, la somiglianza fisica che lo accomunava agli altri, e non lo avrebbe mai potuto ridurre a essere solo se stesso. Il vero mistero della famiglia sta proprio qui, nei rapporti tra fratelli, più che in quello tra genitori e figli. Né si tratta solo delle persone, ma anche dei beni, perché i fratelli non possiedono nulla, ma hanno l'investitura mistica della proprietà, di Isporosile, di Locoi, di Lardine, un'investitura che ha radici più salde che nel codice, perché è un fatto spirituale destinato a non dissolversi mai. Con la sua intelligenza, esasperata dalla solitudine, Donna Vincenza trasferiva nel presente, che era l'avvenire, le angosce del passato. Nelle sue allucinazioni vedeva i figli adulti come quando li teneva in braccio o li metteva nella culla, quando li proteggeva con lo schermo della sua persona contro gli assalti del male. Questi ragazzi esistevano soltanto perché essa li aveva creati, e la famiglia avrebbe resistito fino a quando lei e Don Sebastiano sarebbero stati presenti. Anche Caino e Abele, farneticava, erano cresciuti insieme. Finché Don Sebastiano teneva le redini, anche allentate, l'unione si sarebbe conservata. Fino a quando? Perciò ella non si faceva le sdolcinate illusioni di Don Sebastiano. Per lei non esistevano che i figli, uno per uno, ed erano come il giorno in cui erano nati. Dal seggiolone a cui era ridotta, vigilava ansiosa l'indole e le tendenze di ciascuno, e prima ancora ne studiava la salute, perché qualcuno era delicato. Peppino, ad esempio, che da bambino aveva avuto il tifo e si era salvato per miracolo, tanto che per un anno gli avevano messo addosso, per gratitudine, un piccolo saio di San Francesco, sembrava non essersi rimesso mai, con quel naso sottile e le mani diafane. E Ludovico, l'eterno malato, il saggio di casa, che bisognava curare con brodini e li preparava lei con le sue mani perché soffriva di intestini. Che cosa sarebbe avvenuto di loro senza la sua presenza? E a un certo punto avrebbero dovuto scegliersi un mestiere. Ci sarebbero riusciti? Tutti dicevano di sì, ma ella vedeva Giovanni, il primo, che aveva delle stranezze. A differenza degli altri, che erano estrosi ma allegri, egli, approfittando della grande differenza di età, tendeva a isolarsi, si chiudeva nella sua stanza, sprofondava in terribili mutismi che esplodevano in urla se qualcuno, e fosse anche il padre o la madre, gli chiedeva perché. Quel che era peggio, da qualche tempo pareva che anche la scuola ne soffrisse ed egli non fosse più quello studente regolare che era prima. Correva voce che si fosse innamorato della prima figlia di Don Pasqualino, che era bellissima ma inguaribilmente malata. Lo aveva saputo da Gonaria, che, come tutte le sante, aveva fiuto per queste cose. Da tempo poi disprezzava la casa, trovava tutto storto e pareva si vergognasse persino della madre per le sue gambe grosse, deformate dall'artrite e dalle gravidanze. Bisognava essere ciechi come Don Sebastiano per non vedere. Pasquale, poi, il terz'ultimo, non aveva mai avuto la passione per lo studio degli altri fratelli, che vanamente lo castigavano, nascondendogli le scarpe o chiudendolo nel pagliaio. E Michele, e Gaetano. Non c'era che l'ultimo, quello che ella amava, che si arrampicava ancora sulle sue gambe e l'avrebbe coperta di baci se ella avesse consentito. Ma era piccolo, il male non lo aveva ancora sfiorato. Questi erano i figli invidiati di cui don Sebastiano era tanto orgoglioso. Ma lei sapeva che la pietra di paragone dei figli non è la famiglia, sono gli altri. Era questa Nuoro popolata di ubriaconi, ma anche di gente ardita, disposta alla battaglia e alla conquista. Li passava in rassegna uno per uno questi avvocati che trionfavano nel foro, poiché erano tutti causidici e il foro era come la palestra del borgo. Non li aveva mai visti perché non usciva di casa e i suoi occhi erano come coperti da un velo, ma la fama rotolava dal tribunale fino a lei, passando per il caffè Tettamanzi. Il principe del foro era Paolo Masala, un rampollo un poco meticcio, perché il padre non era nuorese, dei Mannu. Tutti i delinquenti di Nuoro e molti della Sardegna passavano sotto le sue grinfie. La sua voce era quasi un canto e ammaliava i giudici e i carabinieri che lasciavano libero l'imputato, accompagnandolo fino alla porta con mille scuse. Naturalmente donna Vincenza non era mai stata in tribunale, ma lo aveva sentito, perché egli covava intenzioni politiche e perciò, di quando in quando, faceva la parlata nella piazzetta vicina alla sua casa. Il cuore le diventava grosso quando l'eco degli applausi era svanito. Non era invidia, era paura. Capiva che per parlare così, per agire così, bisognava avere forze immense ed oscure che i suoi figli non potevano avere, perché né lei né don Sebastiano, con la sua penna e i suoi atti, gliele avevano potute dare. Il mondo le appariva nemico, un teatro dove solo pochi iniziati potevano recitare, e i suoi figli non erano certamente tra questi. Il tramonto la coglieva spesso in questi pensieri. Don Sebastiano si perdeva nello studio dietro le notizie dei giornali. Ella spiava il ritorno dei figli. Che fare? Che fare? Bisognava che una voce amorosa l'avesse convinta che nel mondo c'è qualche altra cosa che sta fuori della realtà, alla quale bisogna affidarsi per non morire. Ma donna Vincenza trasferiva il passato nell'avvenire e nel suo passato non c'era posto per la provvidenza. I giorni intanto trascorrevano lenti, inesorabili, sulla sua immobile statua. Quando sarebbe giunto l'inverno, al calare del sole, si sarebbe alzata lentissimamente dal seggiolone e col passo traballante sul ciottolato del cortile si sarebbe avviata verso il caminetto della stanza da pranzo. Là sapeva che avrebbe trovato don Priamo, quel fratello di don Sebastiano che già conosciamo ormai avanti negli anni. Compariva coi primi freddi, si insinuava nella stanza e sedeva a un canto del fuoco che gli illuminava la grande barba. Stava là ore e ore senza dire una parola. Quando si era ben scaldato, se ne andava, così come era venuto. Per questo, donna Vincenza lo odiava. Don Ricciotti, maestro Bellisai, se ne stava in disparte, il sedere debordante dalla sedia di vimini del caffè Tettamanzi, ma il suo cervello lavorava con l'ansia di chi sente che sta per raggiungere lo scopo della sua vita, ma sa anche che la sua vita non è lontana dalla fine. Disprezzava con gli occhi tutti quei gaudenti e con la parola il debole maestro Manca, che si vendeva per un bicchiere di vino. Del resto, non sarebbe andato nemmeno al caffè se la sua casa, compresa la moglie, non gli avessero fatto schifo. La sua mente stava attenta a certi segni di novità che serpeggiavano per l'aria. A parte la storia della pedagogia e del maestro Marinotti, a parte gli sberleffi al Padre Nostro di maestro Mossa, il giorno prima una squadra di giovinastri aveva fatto il verso del corvo ai preti che col vescovo in mezzo svolgevano la loro passeggiata serale lungo il giardinetto. Quel che è peggio, quei giovinastri, subito riconosciuti, venivano da San Pietro e, a memoria d'uomo, nessuno fino allora aveva osato varcare il limitare della città borghese del rione di Santa Maria. All'Estanco, il tabacchino di Don Gaetano, arrivavano giornali mai prima visti, come l'Avanti, e più di uno studente ne faceva sfoggio al caffè, quasi a sfida di Boelle e di Bartolino. Egli li aveva cautamente sondati e li aveva sentiti parlare di un certo Marx, di rivoluzione, di socialismo, ma aveva capito subito che si trattava di oziosi idealisti che nulla potevano fare contro Don Sebastiano per obbligarlo a restituirgli la casa di Lorenetto. Tuttavia qualche cosa c'era in quelle idee che non c'era prima, solo che bisognava tradurle in nuorese, cioè mettere al loro posto le cose e le persone di Nuoro, lasciando da parte il resto del mondo. Prese a farneticare, a non dormire, e cominciò così per Nuoro il tempo della confusione. Questo triste paese, nel quale gli era toccato vivere, che era indifferente a tutto, che aveva accettato le spoliazioni di cui egli era rimasto vittima, dormiva un sonno secolare. Era un paese per modo di dire, perché paese è quello dove esiste un prossimo, non quello dove ciascuno vive la sua apparenza di vita, nelle case chiuse come fortilizi e alla farmacia o al caffè. Il solo punto d'incontro è il cimitero. Bisognava risvegliare quei morti e scagliarli addosso a Don Sebastiano. Nel corso dell'anno ci sarebbero state le elezioni politiche. Si sarebbe presentato come candidato. Un'idea folle, perché i deputati di Nuoro erano stati sempre avvocati e i nuoresi si sarebbero vergognati di farsi rappresentare da un maestro elementare. E poi il deputato perpetuo era quell'avvocato Paolo Masala, il formidabile oratore di cui Donna Vincenza aveva sentito la parlata col cuore disfatto. Che importa? I tempi cambiavano. Si trattava di sapere dove e come cominciare. Con San Pietro, era chiaro, non c'era nulla da fare. Quelli erano ricchi o ladri, o ricchi e ladri nello stesso tempo. Non avevano bisogno di lui. Il centro, il borgo di Santa Maria, era la sede del nemico. Là stava Don Sebastiano, là Don Pasqualino, Don Gabriele, Don Serafino e tutti gli altri come Don Sebastiano. Restava il borgo contadino di Seuna, quel piccolo popolo di inermi che aveva le casette sospese nell'aria e davanti alle case c'era il carro e il giogo. Vivevano tutti alla giornata e non sapevano di essere poveri perché non conoscevano la ricchezza. I proprietari di Santa Maria e qualcuno anche di San Pietro andavano a trovarli quando avevano bisogno di una loro giornata ed essi li ricevevano con rispetto nella stanza col focolare in mezzo e il fumo che filtrava e si perdeva nell'azzurro attraverso il tetto. Là era il punto scoperto sul quale si poteva operare. Ne parlò con qualcuno di quei bell'imbusti che sfoderavano l'Avanti. Ma naturalmente si spaventarono. Era più facile gracchiare ai preti che facevano la passeggiata. Giurò a se stesso che i contadini di Seuna gli avrebbero restituito la casa di Lonereddu, col suo giardino, il suo orto e in fondo il boschetto di alloro che suo padre aveva piantato, o almeno immaginava. A Seuna abitavano molti suoi scolari che, fallita la scuola, avevano rimesso il costume e avevano preso le redini dei bovi che i vecchi padri, seduti, se erano ancora vivi, sulla strada di pietra presso la porta, avevano abbandonato. Decise di andarli a trovare. Arrivava verso sera, quando quelli rientravano dalla lunga giornata e si apprestavano a cenare col pane d'orzo intinto nell'olio. Dapprima restavano stupiti perché, anche se maestro, egli era un signore. Poi, a poco, si abituarono a vederlo e gli offrivano il pane, che però egli rifiutava. Era come se fossero tornati alla scuola dopo tanti anni, solo che questa volta non si trattava di quell'incomprensibile alfabeto, ma di cose più semplici, più accessibili alle loro semplici menti. Si trattava di ingiustizie che essi subivano senza saperlo, di Dio che aveva creato la terra e c'era chi la possedeva e chi la arava col miserabile aratro a chiodo, di una possibile resurrezione. La sua parola era mite, dolce, perché sapeva che quegli ignoranti vivevano contenti del loro stato e non avrebbero mai accettato di rivoltarsi contro Nuoro e le sue leggi. Il suo scopo era soltanto quello di aprire nei loro cuori una speranza. Dopo avrebbero odiato Don Sebastiano, Don Serafino, Don Pasqualino, i naturali ostacoli alla speranza, per lui come per loro.